Savonarola, il frate che scombinò Firenze. Prose e scelte. Un programma in collaborazione con Davide e Giorgio e Radio Big World. Savonarola, prose scritte nell'Ottocento dal professor Pasquale Villari e lette oggi da me che invece ho appena la licenza media e me l'hanno data perché era d'obbligo. D'altra parte, val più un colpo del maestro che 100 del manovale. Serio. Capitolo 6. Gennazzano chi? Il Savonarola si trovò da subito isolato dopo i primi giorni della sua dimora in Firenze. A misura che egli diveniva più familiare e domestico con alcuno di quei cittadini, subito scorgeva attraverso quella grande cultura della mente un dubbio eterno nell'anima, un sarcasmo continuo sulle labbra. Questa universale mancanza di principi e di fede lo faceva di nuovo rientrare in se stesso e lo disgustava tanto più fieramente quanto maggiori erano state le speranze da lui concepite nell'entrare in Firenze. Negli stessi frati di San Marco non vedeva alcuna vera religione e il nome di Sant'Antonino, che si spesso ripetevano, era pronunziato piuttosto a stimolo di vanagloria che di carità. Quei loro vantati studi più di tutto lo sdegnavano, vederli discutere con calore sopra i detti di Platone e d'Aristotele, non curando, non avvedendosi neppure quando l'amor di partito e l'impeto della discussione li portava a contrastare i principi stessi della religione, era cosa per lui nuova ed orrenda. Né è da credere che a lungo andare i fiorentini potessero mostrargli simpatia, giacché una diversità d'indole profonda e irreconciliabile li separava da questo frate nuovamente arrivato. In lui tutto partiva dal cuore, il cui impeto generoso muoveva i pensieri stessi della sua mente. I suoi modi però e le forme del dire erano rozze e neglette, la pronunzia aspra, le parole incolte, il gesto impetuoso e quasi violento. I fiorentini amavano invece nei loro predicatori uno studio misurato di gesti, di parole, di frasi, una imitazione visibile di qualche antico, citazioni continue d'altri, e quanto alla sostanza delle prediche non vi facevano gran caso, spesso anzi applaudivano chi lasciava travedere il crederci poco. Il Savonarola veniva fuori nei suoi sermoni furioso contro i vizi e la poca religione del clero e dei secolari, sparlava dei poeti e dei filosofi, condannava lo strano fanatismo per gli antichi e non voleva citare altro libro che la Bibbia, sulla quale fondava tutti i suoi discorsi. Ma a Firenze pochi volevano leggere la Bibbia, perché ne trovavano scorretto il latino e non volevano guastarsi lo stile. Così avvenne che nella chiesa di San Lorenzo, ove l'anno 1483 predicava il frate di San Marco, non si raccolsero mai più di 25 uditori, mentre a Santo Spirito, ove andava un tal Mariano da Gennazzano, la chiesa non bastava a contenere la folla. Questi era un favorito dei medici, i quali gli avevano fatto edificare un convento fuori Porta San Gallo, ove Lorenzo il Magnifico, che voleva essere tenuto un uomo universale, andava spesso a trattenersi per disputare con lui di teologia. Il suo nome era diventato grandissimo in Firenze, massime fra i letterati cortigiani che correvano a udirlo e lo andavano lodando per tutto. La posterità, è vero, ha dimenticato il nome del Gennazzano, ma i contemporanei lo levarono a cielo ed il Savonarola rimane allora da un tale emulo sopraffatto. Lo stesso Girolamo Benivieni, divenuto fin da allora seguace del Savonarola, gli diceva: «Padre, non si può negare che la vostra dottrina sia vera, utile e necessaria, ma il vostro modo di porgere manca di grazia, specialmente essendovi ogni giorno il paragone di Fra Mariano». Il Savonarola gli rispose: «Questa eleganza di parole deve cedere innanzi alla semplicità del predicare sana dottrina». Ma comunque si fosse dell'avvenire, era certo per ora che l'uditorio del Gennazzano ogni giorno cresceva. Egli studiava le frasi, le parole, i gesti, declamava con eloquenza versi latini e greci, citava di continuo Aristotele e Platone. Le sue prediche imitavano le orazioni del Ficino nell'Accademia Platonica, le quali erano tenute allora il perfetto modello d'ogni eloquenza. Spesso raccontava aneddoti che facevano ridere gli uditori e sempre si valeva di tutti i mezzi che potessero accrescerne il numero. Il trionfo di un tale emulo non doveva certo umiliare il Savonarola, ma chi conosce di quanti triboli siano seminati i primi passi della vita, fra quante incertezze bisogni lottare prima d'acquistar sicura coscienza di sé, che inevitabile necessità sia per l'oratore la simpatia dell'uditorio, colui potrà facilmente comprendere che il Savonarola non restasse indifferente alla freddezza con cui veniva accolto. Egli si vedeva come arrestato nel principio del suo cammino, gli era chiusa una via necessaria, indispensabile la sua esistenza. Un momento pensò di abbandonare la predicazione e darsi solo all'insegnamento, ma di poi il suo impeto naturale si ridestò più forte e decise di fulminare con voce più terribile i vizi di quel popolo addormentato e scuoterlo così dal suo letargo. In quell'anno medesimo, 1484, ebbe luogo la morte di Papa Sisto IV e mentre che molti si aspettavano dalla nuova elezione un conforto ai tanti mali che travagliavano la Chiesa, si udì invece essere nata fra i cardinali del conclave tanta dissensione che temevasi d'uno scisma. La seguita elezione tolse però ai buoni ogni speranza. Si udirono per tutta Italia i particolari dello scandaloso mercato tenuto nel conclave. Si seppero il prezzo e i nomi di coloro che avevano venduto i voti. Ed il pontefice Innocenzo VIII, non appena salito sulla sedia, condusse le cose a tale che contro ogni immaginazione degli uomini rese desiderabili i tempi di Sisto. Egli non copriva più i suoi protetti col nome di nipoti, ma li chiamava principi pontifici e li riconosceva apertamente per figli. Era non solo padre, e padre dissoluto, ma così indulgente verso ogni sorta di vizi che la corte romana divenne ricovero d'ogni lascivia e d'ogni scandalo. Ognuno era commosso per questi fatti che minacciavano la religione e disonoravano l'umanità. Né si sapeva prevedere ove mai dovesse precipitare l'umana società con questa serie di papi che ogni giorno peggioravano. Alla morte di Sisto si era creduto impossibile il non migliorare, ma ora si perdeva ogni speranza ed ogni fiducia nell'avvenire. Se questi fatti indegnavano in tal modo un popolo così corrotto, ma che doveva essere del Savonarola? Fortunatamente fu mandato a predicare le due quaresime dell'84 e dell'85 nella piccola terra di San Geminiano, posta fra i monti di Siena. Essa non era peraltro il povero e abbandonato paesetto che oggi si vede. I monumenti, le torri che si levano altissime e si scoprono così lontane alla vista di chi percorre la Toscana, le chiese adorne dei più vaghi concetti del ghirlandaio, attestano ancora che San Geminiano fu una volta fiorente di arti e di senno civile. La sua popolazione non aveva certo la squisita raffinatezza dei fiorentini, ma neppure corrompeva col troppo studio e i molti sofismi la spontanea ingenuità del suo cuore. Non perdeva le idee sotto alle frasi, né, come il poliziano, cercava nei predicatori solamente maestria di periodi e d'incisi, armoniosa cadenza di parole. Su quei monti e nelle pianure d'intorno la campagna vi sorride un sorriso eterno, la primavera vi è quasi divina, il largo e tranquillo orizzonte che si scopre da quelle alture riconcilia l'uomo con la natura e lo ravvicina a Dio. Fra le torri di San Geminiano, adunque, la voce del Savonarola echeggiò più sicura e più padrona di sé. Egli manifestò per la prima volta quelle idee che da lungo tempo lo dominavano e mise fuori quelle parole che dovevano essere il suo grido di guerra, la bandiera di tutta la sua vita. La Chiesa sarà flagellata e poi rinnovata e ciò sarà presto. Invero la storia del popolo ebreo non è che una serie di trasgressioni e punizioni continue. Vi trovava perciò il Savonarola mille argomenti a provare che la universale corruzione della Chiesa rendeva inevitabile il flagello dell'ira di Dio. Ogni volta che parlò dei costumi corrotti, ogni volta che annunziò i futuri flagelli, sentì crescersi l'animo. La parola gli venne più franca, più efficace ed eloquente. L'attenzione del popolo era scossa, l'uditorio quasi rapito. A San Geminiano, adunque, egli ritrovò la sua strada. Ivi conobbe che i tristi presentimenti, i quali agitavano il suo petto, erano del pari nascosti nel cuore delle moltitudini, e che annunziando arditamente i futuri flagelli, egli veniva quasi a rivelare il popolo italiano a se stesso, e trovava sempre un eco universale. Ritornava dunque a Firenze più tranquillo e sicuro di sé, ma divenuto più certo dei suoi principi, egli era anche fatto più cauto dall'esperienza, più guardingo e accorto nel parlare a quel popolo indifferente.